Ok, buonasera a tutti e benvenuti alla lezione La Parashah e la mia vita. Cosa c'entra la Parashah con la mia vita? La Parashah di questa settimana è la Parashah di Vayechi, che è la Parashah finale del libro di Bereshit, si concluderà il primo dei cinque libri della Torah. E in questa Parashah noi parliamo della fine, del tramonto della vita di Yaakov Avinu, terzo degli Avi, che a un certo momento nella Parashah chiama tutti i figli al suo letto e dà un testamento, alcuni li chiamano delle benedizioni, ma poi vedremo nel corso della lezione se effettivamente sono tutte delle benedizioni o meno, e dà il suo ultimo messaggio prima di morire. In questo messaggio una delle indicazioni fortissime che darà è che colui che sarà considerata la guida, dal quale poi deriveranno le guide, sia le guide monarchiche, sia i re, che anche altri tipi di guide, come vedremo più avanti, per tutto il popolo ebraico, sarà Yehuda, Yehuda e la sua tribù. Cosa che sembrerebbe forse sia questo in contrasto alla figura di Yosef, che già era una grande guida, già effettivamente aveva dimostrato la sua capacità. Quindi perché questa preferenza, diciamo, per Yehuda rispetto a Yosef? Cercheremo un po' di approfondire queste due figure di Yosef e di Yehuda, e quello che Yaakov cerca di insegnarci, diciamo, e cosa possiamo imparare noi, la Parashah è la mia vita, cosa possiamo imparare noi da tutta questa storia. Allora, in generale uno, come dicevo, potrebbe pensare che sarebbe stato Yosef quello prescelto per la posizione di guida, anche perché, diciamo, il bene di una organizzazione dipende tutto da una persona, che possono esserci 10.000, per esempio, impiegati in un'azienda o membri di un'organizzazione, eccetera, ma è la guida che conta, riesce a trasportare tutte le altre persone ed essere carismatica ed essere efficiente nel senso del gestionale e in molti altri sensi, allora la cosa avrà successo. Noi abbiamo qui molte indicazioni già della figura di Yosef, che in effetti già sta svolgendo qualche cosa di questo tipo con molto successo, perché è il viceré dell'Egitto e con grande successo sta facendo passare tutta quella popolazione attraverso un periodo di forte crisi, gli anni di carestia, eccetera, e quindi sembrerebbe che rientra sia nel senso cerimoniale, che sembra rientrare nel ruolo, che nel senso gestionale, pratico, che riesce ad avere successo nella gestione di situazioni di non poca difficoltà, perché vogliamo cambiare il capitano, il bravo capitano, quando non si sa quale sarebbe invece la sorte di un altro. Il versetto, qui la prima citazione che abbiamo su questa pagina, numero 1, è il versetto in cui si parla proprio della guida, della nomina di Yehuda alla guida del popolo ebraico. Il versetto dice, questo è proprio nelle cosiddette benedizioni che Yaakov dà ai suoi figli, dove dice Lo Yassur Shevet mi Yehuda. E dice praticamente che la guida non sarà mai distolta, portata via dalla tribù di Yehuda. Shevet sarebbe la staffa, come per dimostrare la posizione di guida. Umechokek mi ben raglav, e coloro che fanno la legge sarà sempre dalla sua discendenza. Ad ki avoshi lo, finché verrà il Mashiach. Il versetto si ripete perché dice non ci sarà sempre il Shevet, cioè la guida, e anche il Mechokek, un altro sinonimo di chi guida, perché da qui i nostri maestri imparano, e derivano da questo versetto, che, come dicevo prima, la tribù di Giuda avrà un ruolo di guida non solamente come re, ma anche in altri contesti, anche in contesti di esilio, dove il popolo ebraico non sarà principalmente in Eretz Israel. Il Talmud dice nel trattato di Sanedrin, qui citato, lo Yassur, al secondo paragrafo, lo Yassur Shevet Miuda, la prima parte del versetto citato, Elu Rashe Galuyot Bebavel, Sherodim et Israel Bashevet, cioè è un riferimento, secondo il Talmud, ai capi degli esili in Babilonia, che avevano l'autorità di guidare il popolo ebraico come per una staffa, cioè avevano una vera e propria autorità riconosciuta dal governo babilonese. Durante il nostro esilio babilonese, che è stato un esilio molto lungo e molto importante dal punto di vista della formazione del nostro popolo, il Talmud babilonese, eccetera, le grandi yeshivot, le grandi case di studio babilonesi, che sono i precursori delle grandi case di studio sefardite e ashkenazite, spagnole, francesi, eccetera, nordafricane, eccetera. Questo tutto era un periodo lungo in cui esisteva la figura del Rosh Galut, o in aramaico Resh Galuta, cioè il capo degli esili, e che era una forma riconosciuta con l'autorevolezza di un'autogestione del popolo ebraico per molte questioni anche legali, che erano gestiti da questa figura e i vari funzionari sotto di lui. E quindi, secondo il Talmud, questo indica già nel versetto, e questa figura era dalla tribù di Yehudà, veniva sempre dalla tribù di Yehudà, e non solo, un mechokek mi ben raglav, e quando si parla nella seconda parte del versetto si ripete che ci sarà la guida sempre dalla discendenza di Yehudà. Questo è invece un riferimento, un'allusione, dice il Talmud, Eilu benei banav shel Hillel, questi sono i figli e i nipoti di Hillel, cioè Nesiea Sanedrin, i capi del Sinedrio. I capi del Sinedrio, che invece in Eretz Israel, che è andato avanti anche per diversi secoli, Shemelamdim Torah Barabim, che insegnano e promulgano la Torah in pubblico, anche quella posizione, Hillel era un discendente della casa di David, e i capi del Sinedrio erano per diverse generazioni discendenti di Hillel, fino a Rabbi Yehuda Nasi, che era il redattore della Mishnah. Quindi una cosa molto importante questa dinastia, diciamo così, di Yehuda, di David e di Hillel, che è tutta la stessa dinastia. Perché? Qual è questa importanza? Perché è più importante Yehuda che Yosef, come dicevamo prima? E se volessimo approfondire un pochino, potremmo dire che ogni cosa che Yehuda fece bene, Yehuda stesso come figura, da quelle storie che ci sono state raccontate nella Torah, Yehuda e Yosef lo fece ancora meglio. Nelle situazioni in cui noi diciamo che Yehuda si comportò bene, adesso vediamo quali erano, troviamo che Yosef si trovò in situazioni simili e in teoria si comportò, secondo quanto ci è raccontato, ancora meglio di Yehuda. Quali sono queste situazioni? Si parla del bene di Yehuda quando si dice che Yehuda consigliò ai fratelli di non uccidere Yosef, ma di venderlo come schiavo. E questo è considerato un grande pregio di Yehuda. Beh, Yosef è uno che non ha mai odiato i fratelli come loro hanno odiato lui. E quindi lui non ha fatto alcun tipo di male di questa sorte ai suoi fratelli, cosa che invece è stato fatto a lui. E Al contrario, abbiamo visto nella parasha della scorsa settimana che era pronto subito anche a perdonare loro una volta si sono rincontrati, eccetera, e lo ha fatto. Un altro pregio che si dice di Yehuda è che quando ha avuto quell'episodio con Tamar, con la nuora, e lei ha dimostrato che era incinta, lui ha detto: Tzadka mimeni, lei ha ragione, io sono colpevole. Era pronto ad ammettere la sua colpa, il suo peccato. Questo è considerato un grande pregio di Yuda. Ma se guardiamo un attimino Yosef, lui è riuscito a non cadere nel peccato. Quando la moglie di Potifar voleva farlo peccare, lui fuggì. Quindi riuscì da priori a non cadere nel problema, che in teoria è ancora più importante, ancora meglio di quanto dimostrò Yosef nel suo carattere e dimostrò Yuda. Entrambe questi pregi di Yehuda sono allusi nei versetti della Torah proprio in questo contesto in cui si parla, in cui Yaakov vuole preparare Yehuda a questo ruolo. In quanto dice, qui lo citiamo al terzo paragrafo, Gur Arye Yehuda Miteref Beni Alita, dove Yehuda, secondo Rashi, questo versetto allude al fatto che Yehuda, appunto, come dicevamo, queste due cose, consigliava di vendere Yosef invece di ucciderlo e ammetteva la sua colpa nella storia di Tamar. E questa è una cosa che per molte generazioni, molti maestri si sono chiesti per quale motivo è stato scelto Yehuda invece che Yosef come figura. C'è una fonte dove i maestri della Mishnah, i primi maestri della Mishnah, esprimono questa domanda, cioè ci viene citato in un Midrash una conversazione tra i maestri che parlavano proprio di questa cosa. E possiamo vedere la citazione qua nel Mechilta, sul Beshalach, che ci racconta la situazione e ci dice: Hayu Rabbi Tarfon Vizkenim, uno dei maestri, Rabbi Tarfon, con altri maestri, Zkenim, erano seduti all'esterno, all'ombra, Bezilosh el Shovach, Beyavne, nella città di Yavne. Amrulo, dissero gli altri maestri a Rabbi Tarfon, Yelamdeinu Rabbeinu, ci insegni, maestro nostro, Beizo Shchut, qual era il merito Zachà Yehuda la Malchut, per il quale Yehuda meritò il regno. Amar Lahem disse lui a loro, che loro non erano semplici allievi, erano già grandi maestri, disse: allora sicuramente avrete già qualche idea, dite voi. Disse lui a loro, Imruatem, dite voi cosa ne pensate di questa questione. Amrulo gli dissero, beh, il merito suo sarebbe probabilmente stato Bishuche Amar, il merito di quanto ha detto, ma Beza Kinaroge Tachinu, perché dobbiamo, cosa possiamo guadagnare dall'uccidere il nostro fratello? È meglio venderlo. Consiglio che dava Yuda, come dicevamo prima. Itzilom Mimita, e con questo lo ha salvato dalla morte. Ok? Allora Rabbi Tarfon ha detto: ah, secondo voi questo è il motivo per cui Yuda merita il regno? Amar Lahem disse loro, Haim Dayala Hatzalah Shetechaper Ala Mechira? È forse sufficiente il salvarlo dalla morte per espiare il peccato della sua vendita come schiavo? Che è anche un peccato gravissimo. Hare Natan Eitzale Mochro Velo Lashivo El Aviv. Lui diede il consiglio di venderlo, ma non il consiglio di farlo tornare da suo padre, che forse sarebbe stato meglio. Non l'avrebbero ascoltato. Non l'avrebbero Ok, ascoltato. non l'avrebbero ascoltato? Invece quello lì è stato il male minore che, diciamo, ha portato alla sua Certo, salvezza momentanea, insomma. assolutamente. In quel contesto era il male minore. Esatto. Ma è il massimo che poteva fare per me. Però vogliamo capire qual è la grandezza di Yehuda rispetto a quello di Certamente, Yosef, non certo. rispetto a quello di altri Quello fratelli che era volevano rispetto a ucciderlo, no? Yosef. Questo è il contesto qui. Allora, vediamo una spiegazione a livello dei commentatori della Torah e poi vediamo una spiegazione mistica. In generale, questa idea di far raccogliere e radunare i figli presso il padre per una benedizione, per un testamento orale prima della morte, è la prima volta nella Torah, questa qui con Yaakov, con Giacobbe, che troviamo una cosa simile. Troviamo per la prima volta, prima di questa, con Yitzhak, che però chiama solamente il figlio primogenito, Esavo, Yaakov, come è andata la storia, però non che c'è questo raduno di famiglia. È la prima volta, questa volta, che troviamo, da quando la Torah racconta la storia delle persone, non ha mai raccontato prima di questa volta una cosa simile. E effettivamente i commentatori parlano di questo, perché se è una cosa nuova, evidentemente ci sarà stato un motivo particolare che ha portato a Yaakov a voler fare questo atto. Inoltre, la cosa si fa ancora più complicata se andiamo a vedere il contenuto delle parole di Yaakov che dice ai suoi figli in quel contesto. Sembrerebbe che una benedizione ci sia stata solo per i 9 figli più piccoli. Per ciò che riguarda invece, da Yehudà fino a Beniamin, per ciò che riguarda invece i 3 grandi, Reuven, Shimon e Levi, non sembra ci sia alcuna benedizione. Anzi, c'è un forte ammonimento per quello che avevano fatto. Certo. No? Allora, che testamento è? È una lezione? È un ammonimento? Per alcuni è una benedizione? Cosa sta succedendo esattamente qui? Se è per ammonire, per mettere sulla retta via, allora dovrebbe valere per tutti. Se è per benedizione, ugualmente dovrebbe valere per tutti. Invece per un po' così, per gli altri così, cosa sta succedendo? Cos'è questo incontro esattamente? Come si definisce? Molti commentatori vanno sulla scia di pensiero secondo la quale questa non è tanto una benedizione quanto un modo di indirizzare i figli, ognuno secondo quanto era la sua caratteristica, il suo carattere, il suo modo di fare, la sua natura, e allora ha cercato di indirizzare ognuno verso quello che sarebbe stato più portato, Giuda verso il regno, cioè in generale la guida, la gestione. Anche le relazioni, appunto. Sì. In base alle relazioni. Esatto, in base a quello che erano, in base a quello, Yissachar verso lo studio, la tribù di Issachar era famosa per i scolari, i maestri che ha prodotto, Zevulun per il commercio via mare, Asher il commerciare nell'olio, in zona di ulivi, eccetera, eccetera. Così dicono molti commentatori. Quindi non tanto una benedizione quanto un indirizzamento, diciamo così, se si può dire. Però a questo punto, perché i 3 grandi rimangono in teoria fuori da questo discorso qua? No, questa è una domanda molto molto forte. Allora c'è un commentatore, famoso Don Yitzhak Abravanel, che è vissuto anche in Italia, dopo la cacciata dalla Spagna. Lui introduce un altro modo di vedere questa cosa. Secondo lui, questo incontro chiamato da Yaakov di tutti i figli prima della sua morte non era né per ammonimento, né per benedizione, né per indirizzamento, niente di ciò. Era con un altro scopo. Secondo lui, e adesso vedremo nei dettagli come può aver senso questa cosa, secondo lui il motivo di questa cosa era la nomina di Yehudà come re del popolo ebraico. Però aveva profetizzato. Sì, aveva preparato Yehudà e la sua stirpe per entrare in questo ruolo. Secondo questa tesi possiamo spiegare che Yaakov, prima di nominare Yehudà, e andiamo in ordine di età, deve bocciare la possibilità di nominare Reuven, che è il primo genito, deve bocciare la possibilità di nominare Shimon, che è il secondo genito, e bocciare anche il terzo, che è Levi. E lì inizia a nominare Yehuda. E poi, dopo che nomina Yehuda, per ciò che riguarda le restanti 9 tribù, inizia a spiegare loro qual è il loro indirizzo, in modo tale che nessuno pensi che forse uno di loro in realtà sarebbe degno a quella posizione. E quindi questa è una incoronazione, è una nomina alla monarchia per Yehuda e la sua stirpe. E non è più le benedizioni o gli ammonimenti, è tutto, gira tutto intorno a questo tema qui. Un'investitura, sì, grazie per la parola perfetta. Ha tolto i primi tre che potrò dire qualcosa. Esattamente. Ha tolto i primi tre e poi ha spiegato agli ultimi 9 qual è il loro vero indirizzo e rimane l'investitura di questo di questa figura di Yehuda, di questa tribù di Yehuda. Vediamo le parole della Bravanel, che sono il paragrafo precedente al numero 3, dove lui esprime questa tesi e dice: Kavanat ele ha-ma'amarim ve'aberachot, il senso di tutti questi detti, tutte queste benedizioni che Yaakov sta dando in questo incontro, dati nota, sarebbe la mia opinione, she Yaakov be'et moto, che Yaakov, al momento prima della sua morte, razza leva'er, voleva far chiarire a tutti quanti, me'eze mi banav, da quale dei suoi figli, yetze, fuori uscirà Shevet Amalchut veAmemshala, la tribù del regno e del governo. Velachen, e perciò, asa chipus vachakira, fece una ricerca, come quando un'azienda cerca un amministratore delegato, no? Vachakira, una profonda ricerca, bechol echad mi banav, cercò di capire bene la caratteristica di ognuno dei suoi figli, la natura che fitti vo secondo la sua natura, utchunato e secondo la sua caratteristica, il suo carattere. Mi hu hara uile malchut, qual è quello che è più degno per quella posizione di regno? Perché ovviamente non c'è ancora in quel momento un re di un popolo ebraico, ma c'è il padre di un futuro re, no? Allora lui ha cercato il padre, cioè per dire probabilmente i figli seguiranno un carattere simile. Kiteva habanim, poiché la natura dei figli, asheri valdu mehem, da cui, cioè che nasceranno da loro, dai padri, yenote le teva avot, sarà simile alla natura dei genitori. Velachen, e perciò, zachar bekol echad mehem atchunot shelo atzmo, pam atchunot shelo atzmo, pam atid lavol zaro. E quindi parla in questo discorso, Yaakov parla non solo del carattere, ma anche, come diceva prima Cesare, profetizza un futuro carattere di eventuali discendenti in questo incontro. Se poi andate a vedere sulla parasha è molto interessante leggere il testo. Leodia, tutto ciò per far sapere, per far conoscere a tutti quanti, im hura uile malchut vestrara o lo, se un determinato figlio, quindi una determinata tribù, sono degni per il regno e il governo o meno. È molto interessante questa visione della Bravanel, in cui appunto, come ripeto, si descrive questo incontro come un'investitura di Yehuda. E ora la domanda torna a quella di prima: per quale motivo Yehuda e non Yosef? La cosa è ancora più interessante quando pensiamo che storicamente c'è sempre stata una rivalità tra Yehuda e Yosef, non solamente in quel primo momento in cui in Egitto Yehuda e Yosef si scontrano sulla questione di Beniamino, eccetera, ma anche nel corso della nostra storia c'è stata questa rivalità di autorevolezza, di autorità in mano a chi sta, in mano a chi viene da Yosef o in mano a chi deriva invece da Yehuda. Abbiamo come due dinastie dominanti a livello di guida del popolo. Se pensiamo chi era il primo che ha preso il posto di Moshe Rabbeinu, colui che era la guida del popolo ebraico dopo Moshe, chi era? Yoshua ben Nun, Giosuè, Yoshua. Da quale tribù veniva Yoshua? No, Sempre quello di Davide? no, No. Yoshua veniva da Efraim, e cioè da Yosef. La prima guida dopo Moshe derivava da Yosef. Yoshua era della tribù di Efraim, che viene da Yosef. Questo in qualche maniera non entra in contraddizione già con questo che si sta dicendo. Con quello che Jacob in teoria voleva, no? Cioè Jacob voleva che la Era guida sia da Giuda. Esatto. esatto. Invece noi vediamo, appunto questo chiariremo, noi vediamo che ci sono due dinastie dominanti. A volte domina Giuda e a volte domina Yosef, però alla fine il dominio duraturo, eterno, è sempre quello di Giuda. Vediamo qualche esempio. Ma anche perché il Mashiach sarà quello di Ben Yosef, quello Esatto. di Ben Yodah, che Ben Yosef preparerà la strada per quello di Ben Yodah. Arriverò a questo. Sì, bravo. Allora, il primo, di nuovo, la prima guida dopo Mosè è Yoshua, che viene da Yosef, e anche il primo re del popolo ebraico non è David, è Shaul, Saul, che viene da quale tribù? Sarà Giuseppe, è certo, no? Vicino a Yosef. Viene da Beniamin, che è sempre figlio di Rachel. Interessante. Yosef e Beniamin sono gli unici due figli di Rachel, la prima moglie, la moglie principale, diciamo, di Jacob. Ok? Quindi vicino a Yosef anche. Ma sempre, come dicevamo, sempre in questi casi in cui il dominio era in mano alla tribù di Yosef o comunque Beniamin, era una cosa temporanea, mai molto duratura. Anche se in alcuni casi è durato un po', come vedremo più avanti nella storia. Dopo la morte di David, che ovviamente viene dalla tribù di Giuda, e dopo la morte del suo figlio Salomone, Shelomò, che chiaramente viene dalla stessa tribù, ci fu una grande scissione all'interno del regno ebraico e divennero due regni. Da una parte ci fu il figlio di Shelomò, cioè Rehovam si chiamava, che ha regnato dopo Shelomò. Ma il suo grande nemico e rivale, Jerovam, figlio di Nevat, che era dalle tribù di Efraim, figlio di Yosef, ha costituito un altro regno. In realtà la maggior parte delle tribù del popolo ebraico erano sotto la sua autorità. 10 delle tribù, il regno di Israele, e l'altro regno era il regno di Giuda. E questa è una dinastia che è andata avanti per quasi 4 secoli, quella di Efraim, quella che veniva da Yosef. Beniamino era diviso in due, mi sembra, il due Beniamino, uno e mezzo. Il territorio, Sì. diciamo, Beniamino era più con Giuda, però, a livello territoriale. In questo momento allora, questo, come dicevo, andava avanti per diversi secoli fino al tramonto del periodo del primo Bet HaMikdash, e con la distruzione del primo Bet HaMikdash è stato annullato completamente tutto il concetto di monarchia in Israele per quel momento, e in quei momenti profetizzava il profeta Yechezkel, la profezia che abbiamo letto nell'Haftarah il sabato passato, lo Shabbat, questo qui appena passato, sulla eventuale e futura, sulla futura unione tra i due regni ebraici, dove il profeta dice che al profeta viene detto nella sua visione profetica di prendere due rami: su un ramo sarà scritto Yehudah, sull'altro sarà scritto Efraim, che appunto rappresenta Yosef, e di unire questi due rami come se fossero un unico ramo, e questo per simboleggiare l'unione dei due regni. Però conclude: Ve David avdi nasi lahem leolam, ma il loro capo sarà il mio servo David. Quindi la riunione, ma a capo di questo popolo unito il regno rimane di David, della tribù di Giuda. Questo l'abbiamo letto nella Parashah, nell'Haftarah sabato scorso dalla profezia di Hezkel. Anche, come diceva Cesare, riguardo la futura redenzione del Mashiach, c'è scritto che anche lì ci sono due figure del Mashiach. Uno che viene da Yosef e che in qualche maniera è solo una fase prima della finale fase del Mashiach, che è Mashiach ben David, un Mashiach che viene dalla tribù di David, di Yehuda, dalla stirpe di David, dalla tribù di Yehuda, ed è quello che costruirà il terzo Beit HaMikdash di Yerushalayim. Allora, di nuovo, ripetiamo per quale motivo la preferenza a Yehuda rispetto a Yosef. C'è una cosa interessante a livello mistico. Secondo il quale, c'è scritto nel Zohar, e l'ho ricordato qualche volta in qualche lezione, che in generale la mistica insegna che ogni anima, quando nasce una persona, un'anima viene su questo mondo, ha già un determinato numero di anni che dovrà vivere, di permanenza su questo mondo. Il Zohar dice che l'anima di David, del re Davide, non aveva anni di vita, cioè doveva nascere e morire. E c'è una fonte che dice che era Adamo, il primo uomo, che a lui erano stati fatti vedere profeticamente tutte le guide di tutte le generazioni, ha visto che questa era una guida molto importante, ma che non sarebbe morto subito, e ha donato 70, bravo, 70 dei suoi anni. Infatti sulla Torah è scritto che Adamo ha vissuto 930 anni. Il Zohar dice che avrebbe dovuto vivere 1000 anni e ha dato 70 anni a Davide. Davide ha vissuto 70 anni. Però ci sono altre fonti che dicono che Davide ha ricevuto questi anni da altre fonti. Quali fonti? Molto interessante. Dice così: il nostro avo Yaakov, scusate, Yitzhak, il padre di Yaakov, è vissuto 180 anni. Rashi riporta alcune fonti che dicono che anche gli altri tre avi, in realtà il progetto divino, diciamo, sarebbe stato che sarebbero vissuti anche loro 180 anni, come Yitzhak. Invece non è stato così. Avraham, il padre di Yitzhak, quanti anni ha vissuto? Vi ricordate? 30. No, di più. Lui ha vissuto 175 anni. Ok? 5 anni in meno del 5 anni in meno, che in teoria, secondo questa fonte qui, questi 5 anni sono stati donati a David. Ok? Yaakov avrebbe dovuto vivere come Avram, 175, e però è morto a 147, lo leggiamo nella parashah di questa settimana, della morte di Yaakov, e questi 28 anni di differenza li ha dati di nuovo a David. Quanti sono? 28 più 27, 5, 5? 33. 28 e 5, 33. 33, sì. Dopodiché, Yosef doveva vivere come suo padre Yaakov, 147. È molto Giovane, è morto a 110. Quei 37 anni in più li ha dati a David. Quindi sono 33 e 37 37. sono 70. Vuol dire che David, secondo questo calcolo qui, ha ricevuto da Avraham 5 anni, da Yaakov 28, è il numero maggiore, più della metà dei suoi 70 anni, 37, ha ricevuto proprio da Yosef. Molto interessante, perché questi sono i due rivali, la casa di David, la casa di Yosef, la casa di Efraim. Ok? Questo lo è scritto nel Zohar. Per citare una cosa un po' meno sacra, dicono che nei sondaggi che fanno negli Stati Uniti per capire chi vincerà la presidenza, una delle domande che pongono alle persone è questa: con quale candidato vorresti uscire per prendere un caffè? E in base a questa risposta è una delle indicazioni più precise quale sarà il candidato che voterà. Perché il candidato con il quale la persona si sente a proprio agio o comunque interessata a passare un po' di tempo, con con quella persona, con quel candidato, è probabile che sarà il candidato scelto da questa persona dove va a fare le elezioni. E forse questi che fanno i sondaggi hanno letto qualche commentatore della Torah, perché su alcuni commentatori dicono che il motivo per cui è stato scelto Yehudà e non Yosef lo dice Yaakov stesso, e in questa nostra parasha ci sono tre parole che Yaakov dice riguardo Yehudà, che qui potete vedere citate al numero 4. Yaakov dice così, in questo incontro di cui stiamo parlando, lui parla con Yehudà e dice: Yehudà, ata, tu Yehudà, Yoducha Achecha, i tuoi fratelli, praticamente possiamo dire, tradurre in maniera liberale, i tuoi fratelli ti riconoscono in te la figura di una guida. Il commentatore italiano Sforno, molto importante, dice: Yoducha Achecha, loro ti, diciamo, riconosceranno la tua grandezza in quanto Yikabluha le Melech, sono i tuoi fratelli che ti vedono come re. Kiatara Uilim Loch. Un altro commentatore, Chizkuni, dice: Yehudà ta Yoducha Achecha. La parola Yehudà ci ricorda la parola Yoducha, Yodu. Lashon nofela lashon, dice, è come un gioco di parole, Yehudà e Yoducha, Oda, chi chabducha e shabchu, i tuoi fratelli ti porteranno rispetto e ti porteranno onore, ti loderanno. In altre parole, quello che questi commentatori stanno dicendo, e che in realtà ci stanno facendo capire che Yaakov stesso lo ha detto, Yaakov sta dicendo: non sono io che sto facendo l'investitura di Yehudà, sto semplicemente riconoscendo dove i fratelli riconoscono più una figura di guida, e non c'è nessuno che lo riconosco, nel quale lo riconoscono più di Yehudà. Sono loro che in realtà lo rendono re, anche senza saperlo lui riconosce e dice: così sarà. Cioè Yehudà era una guida dalla nascita, era il suo carattere. E questo ha fatto sì che gli altri lo vedessero così, lo vedessero sempre, da sempre, come guida. È vero che Yosef era molto bravo, forse in certi casi, in certe situazioni, ancora più bravo di Yehudà, ma non aveva quella qualità che era accettato dagli altri. Una guida deve essere non solamente bravo, ma deve essere anche accettato. E Yosef era forse bravo l'opposto. Yosef forse era troppo elitista. Forse sì, non era uno del popolo, non era uno di loro. Era quello che era privilegiato. La gente non voleva prendere un caffè con lui. Con Yehudà potevano anche sentirsi a proprio agio. Come l'apporto si poteva avere con Mosè e Aaron, due persone differenti. Dunque. Vero? Più con Aaron, che si sentivano a loro agio, esatto, che con Mosè, che era la figura, esatto, figura molto elevata. E quindi possiamo dire che questo non è necessariamente un difetto di Yosef, anzi forse è un suo pregio, il fatto che lui, nato da Rachel, era quasi come considerato un principe da suo padre, non è che lui era una persona giusta nei suoi comportamenti, una persona di una certa statura elevata spiritualmente, lo vediamo anche nel suo comportamento, eccetera. Ma un re non è necessariamente la persona perfetta. Certo. Non, il fatto di essere perfetto non fa sì che la persona può essere il capo. Era schematico Yosef. Esatto. Era molto, ragionava molto sulle cose. Sì, dunque, sì. Però un re deve anche essere uno del popolo. Esatto. Il popolo deve vedersi nel re. Deve potersi rispecchiare nella loro guida. Capisce anche la cosa, però, nella figura di Yehudà, mm-hmm, che è sempre lui che rispetto agli altri si prende le responsabilità. Bravo. Sia del fratello piccolo prima, poi affronta. Questo è un ottimo punto, cioè Yehuda, e gli dice: guarda, basta, a questo punto ho fatto tutto quello che dovevo fare. Verissimo. Sì, è sempre lui. Questo è un ottimo punto, cioè Yehuda, nonostante i suoi difetti, comunque è pronto ad assumere le proprie responsabilità, anche prendendo l'iniziativa per farlo e creare la situazione giusta che serve sul posto, anche ad hoc, nel momento giusto, nel posto giusto. E quindi Yehuda è uno di loro, i fratelli hanno peccato, Yehuda ha peccato con loro, è caduto anche lui nel problema. Non è questa la grandezza, che lui è riuscito a venderlo e non a ucciderlo, eccetera. Sì, quello è un grande pregio, come dicevamo prima, nel contesto, il male minore, eccetera. Ma il fatto appunto di assumere la responsabilità, di essere comunque uno tra gli altri, avere le stesse tentazioni, avere le stesse problematiche, sentire i stessi problemi, e nonostante poter poi ricostituire la propria persona in maniera responsabile, e così via, questo è stato il punto per il quale Jacob ha detto: ecco, sono i fratelli stessi che si rispecchiano in Yehuda come guida, e non in Yosef. Yosef forse in questo contesto qui possiamo considerare è troppo perfetto. Troppo messo lassù, sì. Vediamo ora, da un punto di vista più mistico, cosa potremmo dire. In generale possiamo dire che la vita dell'ebreo si suddivide in due ambiti generali, che è la Torah, quindi lo studio, e le mitzvot, cioè l'atto pratico, come va messo in atto quello che appunto si studia. Da una parte c'è lo studio, che è la parte di teoria, che è la parte di approfondimento, di meditazione, di apprendimento, eccetera, è l'aspetto più intellettuale della fede. Poi c'è la parte dell'azione, che sembrerebbe la parte forse da questo punto di vista meno importante, perché lì uno capisce, lì uno solo mette in atto, sono solamente delle azioni, degli atti. Qui si tratta del cervello e lì si tratta delle mani e dei piedi, quindi sembrerebbe che il primo è più importante. No? Però se mettiamo veramente all'esame questa cosa, quale dei due è davvero più importante secondo l'ebraismo? Possiamo avere da una parte un ebreo molto intellettuale, un grande intellettuale, molto intelligente, molto studioso, che può dare una lezione, può trasmettere una lezione su qualsiasi tema ebraico in grande profondità, a ogni tipo di pubblico, eccetera. Ma per ciò che riguarda mettere in atto le mitzvot, non è così bravo, non li mette in atto, ma fa la sua vita. Le mitzvot sono cose tecniche, non sono così importanti, non è l'intelletto, eccetera. Lui potrebbe dire: mi lego al Signore attraverso il mio pensiero, attraverso il mio intelletto o anche il sentimento, l'atto meno incide meno, diciamo. Un'altra parte, ci potrebbe essere una persona che è molto attenta all'atto specifico e pratico che va fatto e come va fatto e quando va fatto, eccetera eccetera, no? Cioè essere attenti alla halakha, a ciò che è richiesto nella vita quotidiana dall'ebreo, come si deve proprio comportare. Viene 3 volte al giorno a pregare al Tempio e ogni mese che guadagna qualcosa da una decima parte in tzedakah e cerca di più possibile fare più mitzvot, anche se forse non riesce a studiare molta Torah o non capisce molto lo studio della Torah in senso profondo della cosa. Lui dice: io mi lego al Signore attraverso le mie azioni, attraverso il mio comportamento. Il mio comportamento parla per me. Chi di questi due è veramente più vicino? No? In teoria uno potrebbe fare una domanda di questo tipo. Nell'insegnamento chassidico si spiega che queste due figure sono Yehuda e Yosef, in un certo senso. Se vediamo più approfonditamente le due figure di Yehuda e Yosef, possiamo dire che Yosef è quello che è sempre indicato come quello lì su, come dicevi tu, cioè la persona della testa, dell'intelletto, che non ha i problemi che affliggono le persone più semplici. È sempre rimosso, come dicevamo prima, dalle piccole problematiche, perché sta nel mondo del pensiero, sta nel mondo dello spirito. Yosef è come un trapianto. Yosef nel Zohar si chiama un pesce. Perché un pesce? Un pesce sta nell'acqua, sta dentro il suo elemento, la sua fonte della vita è sempre evidente per lui. Yosef è come se stesse nell'acqua, cioè sta nel suo elemento, sta nello spirito. Ok? E come diceva Cesare, pensa sempre avanti, arriva con la mente a fare delle strategie a lungo termine, 7 anni, altri 7 anni, cioè non è uno che pensa oggi domani. È nel mondo del pensiero, nel mondo dell'intelletto. Yehuda è un uomo dell'azione, dell'atto pratico. Yehuda è la persona che forse non è questo grandissimo manager e capo come Yosef, è un pastore. Per lavoro Yehuda, come gli altri fratelli, a parte Yosef, faceva il pastore, ma riesce sempre a fare la cosa giusta. Alla fine, come diceva Fabio, prende la responsabilità per Beniamin, fa quello che deve fare, è quello che per Yaakov va prima in Egitto per istituire istituti di studio, prima che il popolo ebraico si sposta lì, e che tra l'altro non era lui quello che insegnava, era Levi quello che invece era la tribù che era predisposta per l'insegnamento della cultura ebraica. Yehuda però era quello che l'ha messo in atto, ha fatto le scuole. Questa tensione tra la dinastia di Yosef e ciò che rappresenta e la dinastia di Yehuda e ciò che rappresenta è in realtà la tensione tra queste due figure, tra la figura dell'astratto e la figura del pratico. In realtà è quasi impossibile dire quale è meglio dell'altro, perché è chiaro che servono tutte e due. È ovvio che il popolo non può andare avanti senza uno o senza l'altro. Però, quale prevale? Perché alla fine tra Yosef e Yehuda, uno dei due prevale, chiaramente è Yehuda. Alla fine prevale la persona semplice. Perché? Quello che si lega a Dio solamente attraverso lo studio, in un certo senso ancora non si è staccato dal proprio ego, perché tutto dipende da quello che lui riesce a capire, quello che lui riesce ad approfondire, tutto nel suo intelletto, che è ovviamente un intelletto umano limitato. Non ha ancora, possiamo dire, è possibile studiare la Torah senza essere timorosi di chi ha dato la Torah, senza essere timorosi di Dio. La Torah, nel caso estremo, in senso negativo, potrebbe essere un altro regime accademico che uno, di cui uno si occupa, che uno dedica anche forse la propria vita a fare delle tesi, ad approfondire. Tutto su Torah, però è tutta la persona ancora. Non dovrebbe essere teoria, però potrebbe rimanerlo, volendo. E potrebbe anche cambiare il senso di quello che uno studia a secondo di un proprio carattere, a secondo di un proprio modo di vedere il mondo in generale, di apprendere le cose. Nel mettere in atto una mitzvah, la mitzvah è quella. La persona si mette totalmente da parte. Dice, la mitzvah è questa, i tefilin vanno messi così, fai un'altra cosa, va bene, fai un'altra cosa, ma non sono tefilin. Quella è la mitzvah. Il mettere in atto la mitzvah è un atto di fede. È un atto di mettere il sé, l'io, da parte e dire, io sono tuo, non mi faccio domande. Faremo, ascolteremo. Io sono di HaKadosh Baruch Hu. Prima cosa. La prima cosa è... trasmettere la Torah è una grossa mitzvah. Certo, però la domanda è... Non che trasmettere la Torah non è una mitzvah, è anche una mitzvah, è un ottimo punto. Ma la domanda è perché trasmetti la Torah? E quindi l'esame di questa cosa va poi ad essere, se questa persona che trasmette la Torah mette in atto anche le mitzvot, allora vuol dire che trasmette la Torah perché è una mitzvah. Se invece non mette in atto le altre mitzvot, allora vuol dire trasmette la Torah perché quella è una sua passione, perché quella è una cosa che gli fa piacere. Oh. Ma dov'è l'elemento di mitzvah in questo? L'esame è se ci sono anche le mitzvot. E di conseguenza, quando noi pensiamo al popolo ebraico nel lungo termine, visione storica a posteriori, no? A ritroso se guardiamo, il fatto che siamo qui dopo tutti questi anni, tutte queste persecuzioni, non è in realtà perché abbiamo avuto grandi pensatori, grandi filosofi, grandi studiosi. Molti popoli hanno avuto molti studiosi che, alcuni di loro vengono ancora citati, alcuni di loro non vengono citati, però citati in quanto uno studioso che una volta è esistito. Ma la vita vissuta ebraicamente esiste perché è vissuta. Esiste perché un ebreo si sveglia la mattina e mette tefillin e fa Shabbat e fa mangia kasher, eccetera, eccetera. Si distingue o comunque definisce la sua esistenza in questa maniera. Una volta il suocero del Rebbe, il Rebbe Yosef Yitzchak di Lubavitch, stava in un incontro dove trasmetteva storie e parole di Torah con i ragazzi della Yeshiva, questo era in Polonia, prima della guerra. E era così bello stare lì. E ogni tanto il Rebbe guardava l'orologio, perché era vicino all'orario di Mincha. Però qualche ragazzo ogni tanto girava l'orologio indietro per allungare questo bellissimo incontro che nessuno voleva andare via. A un certo momento il Rebbe ha intuito quello che era successo e ha detto al segretario, che si chiamava Rebbe Cheskel Feigin, Hache Feigin, dice: sappi che tutte queste grandi cose di cui stiamo parlando, profondi livelli spirituali del divino, non sono delle entità reali, concrete. È tutta una bella teoria, ma pregare Minchà nel momento giusto, quella è un'entità concreta, vera, reale. In altre parole, è tutto molto bello, ma se poi non si esprime in quello che la Torah chiede da te, allora a che cosa è servito tutto ciò? In realtà la Mishnah lo dice, il trattato di Avot, è l'ultima citazione qua sulla pagina, vediamo come lo esprime la Mishnah. La Mishnah usa una metafora molto bella e dice: Kol shechokhmato merubba mimasav, chiunque ha più saggezza di azioni, cioè la sua saggezza è maggiore rispetto a quello che mette in atto, le mahu domè, a che cosa potrebbe essere paragonato? Dice la Mishnah, le ilan, potrebbe essere paragonato a un albero, shanafav merubim, che ha molti bei rami, ma shorashav muatim, ha poche radici. Ovviamente, cosa succede? Ve ruach ba, può giungere un forte vento, ve okartò e lo sradica, ve fachtò al panà, ve lo rovescia. Non ha le basi. Aval kol shemasa merubim e chokmato, però dice la Mishnah, chiunque ha più azioni rispetto alla sua teoria, alla sua saggezza, le mahu domea, che cosa può essere paragonato? Le ilan ha un albero shanafav muatim o meatim, che ha pochi rami forse, però veshorashav merubim, ha delle forti e molte radici. Shafilu kol aruchot shebaolam noshvot bo, possono venire tutti i venti del mondo, però en mesisotto tomim komo, non lo muovono, non lo spostano dal suo posto, dalla sua posizione. Secondo questo, e concludo, si può cercare di capire una storia del Talmud, che già abbiamo avuto occasione di vedere anche in qualche lezione, però alla luce di questa lezione diventa ancora più chiara questa cosa. Si parla nel Talmud, nel trattato di Avodah Zarah, di alcuni momenti molto difficili della nostra storia, dopo la distruzione del secondo tempio, momento in cui c'è stata una ribellione, una rivolta da parte di alcuni degli ebrei, e i romani hanno, come risposta, hanno fatto dei decreti fortissimi contro l'ebraismo, E tra i divieti, tra questi decreti, c'era anche quello che vietava il raduno per motivi di insegnamento di ebraismo, di Torah, in pubblico. In quei giorni andò uno dei maestri, che si chiamava Rabbi Hanina, ben Tradion, figlio di Tradion, andò a trovare un suo maestro, che stava male, molto male, Rabbi Yosse ben Kisma. Il maestro malato dice all'allievo, che era ormai lui un grande maestro, dice: parlano male di te, che parlano male di me. Ho sentito che nonostante il decreto dei romani, tu continui a creare incontri per lo studio. Beh, è pronto a rischiare per insegnare la Torah, una cosa bella, dice, però in teoria non lo dovrebbe fare perché rischia la vita, perché che se andavi contro quei decreti, la sentenza era una. Allora perché, come puoi fare una cosa del genere? Allora Rabbi Hanina fa una domanda strana per rispondere al suo maestro. Gli dice: maestro mio, secondo te, quando io verrò davanti alla Corte Suprema Celeste, sarò degno di entrare nel Gan Eden? Sarò degno di entrare nel Paradiso, nel Gan Eden? Allora il suo maestro gli risponde: raccontami qualcosa che hai fatto. Dimmi quali sono le tue azioni e ti dirò se sei degno o no. Gli chiede in particolare: ti è successo qualcosa per il quale pensi che sei degno? Come a dire, questo grande maestro che faceva tutto per insegnare la Torah non avesse nessun merito. Stranissimo. E lui gli dice: beh, mi è successo una volta che, visto che lui aveva come ruolo, era anche uno dei responsabili del fondo della carità per distribuire i fondi che erano raccolti per aiutare i poveri, lui era uno che doveva distribuirli, cioè uno degli incaricati sul fondo, quindi una persona fidata dal pubblico. Ed era Purim e c'erano diverse offerte, perché di Purim si fanno più offerte che normale, e ha trovato nel suo portafoglio personale dei soldi che non era sicuro se erano suoi personali o se erano di questo fondo qui, che era un fondo per i poveri. E allora ha donato tutto quello che c'era lì ai poveri per non entrare nel dubbio che forse prende qualcosa dai poveri per sé. Allora Rabbi Yosse ha detto: ah, così è successo? Allora sicuramente sei degno di entrare nel Gan Eden quando arriverà il momento. Stranissimo, si capisce una parola di questa storia. Secondo quanto noi abbiamo spiegato prima, possiamo capirlo meglio. Molti commentatori e maestri spiegano che una persona merita il Gan Eden per un atto che fa senza alcun interesse, senza alcun secondo fine, se non che quello del timore del cielo, cioè per la mitzvah stessa. Una persona come Rabbi Hanina, ben Tradion, che tutta la sua vita era la Torah, se lui anche al rischio della propria vita insegnava la Torah, ancora non è una prova che merita il Gan Eden, perché questo è il suo carattere. Lui non conosce nient'altro a parte insegnare, studiare ed insegnare. E il suo carattere vuol dire rimane sempre la sua persona, il suo io, il suo ego, anche se lo fa in una maniera incredibilmente ammirevole, particolare, richiedendo molti sacrifici, eccetera, rischi addirittura. Però può darsi che ci sia sempre quell'elemento di sua persona, suo interesse, non interesse nel senso brutto della parola, ma comunque è sempre un interesse, è sempre quello che è il carattere della persona. Dal momento che gli arriva una cosa di questo genere, che non rientra in quello che è il suo carattere, in quello che è il suo ruolo normale, era come una cosa in più, e quel denaro gli è arrivato proprio un caso specifico. Quel denaro era una cosa che lui doveva decidere, come devo agire, e nessuno lo stava guardando, e nessuno avrebbe detto niente, avrebbe saputo come avrebbe agito, e in quel caso ha deciso di fare in maniera estrema solo le Shem Shamaim, solo per il volere del cielo, allora lì il suo maestro ha detto, questa è un'indicazione che veramente anche indica che tutto quello studio non era per il suo ego personale, era veramente per il suo essere dedicato al valore, all'ideale. Allora di conseguenza possiamo concludere anche noi, augurarci di poter fare almeno una cosa nella vita, sicuramente possiamo molto di più, che sia senza alcun interesse personale, e di nuovo interesse non deve essere una cosa brutta, anche una cosa umanamente normale, ma c'è sempre quel poco in più che si può fare che ci porta al prossimo piano, cioè al dire questo è solo per il fine in assoluto, senza alcun altro tipo di elemento che si mischia nel sentimento o nell'atto della cosa. E la cosa più importante è che, tornando al tema della lezione, alla fine è Yehudah che prevale, perché alla fine una guerra si vince con i soldati semplici. Cioè, possiamo avere tutta la più grande tecnologia, i più grandi generali, importanti, intelligenti, ma se i soldati semplici non fanno il lavoro, la guerra è persa dall'inizio. Allora, la stessa cosa nell'ebraismo. L'ebraismo va avanti quando i soldati semplici, cioè ognuno di noi, ogni piccolo ebreo, fa e agisce, si comporta nella maniera in cui è richiesta, questo garantisce la continuità di Am Israel. Le teorie vanno studiate, vanno approfondite, vanno conosciute, eccetera, eccetera. Ma con le teorie non si vince la guerra, no, non si porta alla prossima generazione, si porta con le azioni. Zach, Zach. Zach.